Se dunque siete risorti col Cristo, cercate le cose di lassù, dove è il Cristo, assiso alla destra di Dio. Pensate alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti, e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando il Cristo, nostra vita, apparirà, allora anche voi apparirete con Lui, rivestiti di gloria. Fate dunque morire le membra terrene: fornicazione, impurità, libidine, desideri sfrenati e l'avidità di guadagno, che è poi idolatria. Per questi vizi piomba l'ira di Dio. Anche voi un tempo li praticaste, quando di loro vivevate. Ora però banditevi tutti anche voi: collera, escandescenze, cattiveria, maldicenza, ingiurie che escono dalla vostra bocca. Non mentitevi a vicenda, poiché vi siete spogliati dell'uomo vecchio e del suo modo di agire, e vi siete rivestiti del nuovo che si rinnova per una più piena conoscenza, a immagine di colui che lo ha creato. In questa condizione non c'è più greco o giudeo, circoncisi o incirconcisi, barbaro o scita, schiavo o libero, ma Cristo, tutto e in tutti. Voi dunque, come eletti di Dio, santi e amati, vestitevi di tenera compassione, di bontà, di umiltà, di mitezza, di longanimità, sopportandovi a vicenda e perdonandovi se avviene che uno si lamenti di un altro. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Soprattutto ciò, rivestitevi di carità, che è il vincolo della perfezione. E la pace del Cristo, alla quale siete stati chiamati in un solo corpo, regni sovrana nei vostri cuori, e siate riconoscenti. La parola del Cristo abiti in voi con tutta la sua ricchezza. Istruitevi e consigliatevi reciprocamente con ogni sapienza. Con salmi, inni e cantici ispirati, cantate a Dio nei vostri cuori con gratitudine. E qualunque cosa possiate dire o fare, agite sempre nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. Donne, siate sottomesse ai vostri mariti, come conviene nel Signore. Mariti, amate le vostre donne e non siate indisponenti verso di loro. Figli, obbedite ai vostri genitori in tutto, perché è gradito nel Signore. Padri, non provocate i vostri figli, perché non si perdano di coraggio. Schiavi, obbedite ai vostri padroni terreni in tutto, non solo sotto i loro sguardi, perché volete piacere a uomini, ma con cuore semplice, perché temete il Signore. Qualunque cosa facciate, agite con cuore, come per il Signore, e non per gli uomini, sapendo che riceverete dal Signore, come ricompensa, l'eredità. Servite al Signore Cristo. Certo, chi commetterà ingiustizie riceverà la ricompensa della sua ingiustizia, e non c'è riguardo alla persona.